La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, eccoci al solito posto, alla solita ora per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui, la Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana senza enormi eventi in termini mediatici, diciamo, per quanto riguarda il cinema in sala, comunque almeno un paio di film importanti, ne daremo ampio conto nella nostra trasmissione, nella quale parleremo come sempre anche di un video, e fra poco vi darò anche un appuntamento agli Univision Days che sono in corso di svolgimento a Milano, perché ci troveremo, se vorrei, la sera di lunedì 11 intorno alle 20 per la proiezione del Rocky Horror Show, perché appunto sarà un momento d'incontro importante, io ci sarò, vi aspetto numerosi, ma fra poco tutti gli appuntamenti. Partiamo subito però col cinema in sala, partendo dal primo film di cui vogliamo parlarvi fra quelli che sono già nei cinema italiani. Si intitola Forza Maggiore, è diretto dallo svedese Ruben Östlund, che qualche anno fa si era messo in luce con un film che si intitolava Play, forse qualcuno di voi lo ricorda. È un film molto interessante perché sulla carta e anche nei trailer potrebbe sembrare un film catastrofista. Una famiglia svedese in vacanza sulle Alpi francesi in una bellissima giornata di sole, nel momento in cui dall'alto della montagna si stacca una valanga che sembra dover travolgere tutto e tutti. Le reazioni che scatenerà questa valanga in arrivo, quella del padre, del capofamiglia, diciamo così, che si sposta immediatamente per correre ai ripari personalmente, e quelli della donna, della madre, dei due bambini, che cerca invece di andare immediatamente a proteggere i figli, saranno il vero centro del film, perché la valanga non arriverà, e questo lo vedrete subito. Quello che arriverà sarà davvero una disastrosa relazione, e questa cosa è molto interessante perché il regista ha raccontato di aver preso lo spunto per questo film dal fatto che pare che fra i sopravvissuti a catastrofi naturali ci sia un altissimo tasso di divorzi, e proprio lì quindi è andato a lavorare con questo film che ci facciamo raccontare nel reportage di Chiara Pizzimenti. Tommaso, è una valanga? Sì, ma è controllata. Sicuro? Sì, sì, sì, tutto sotto controllo. Harry, calma, calma. Harry! Premessa: le voci che avete appena sentito sono quelle di una famiglia svedese che fino a quel momento il film ci ha mostrato felice in una vacanza sulla neve in Francia. Stanno pranzando all'aperto in un rifugio. Sono madre, padre e due figli piccoli. Nella prossima clip manca una delle quattro voci. Siamo salvi. Vera, come stai? Tutto bene? Sì. Tutto bene, Harry? Stai bene? Stanno tutti bene. Effettivamente è una valanga controllata. Ma il papà non c'è. Anziché restare, come ha fatto la madre, a proteggere i figli, è stato il primo ad andarsene, a mettere in salvo se stesso e lo smartphone. Era tutto sotto controllo, sanno il fatto loro, non c'era nessun pericolo. Lui si è talmente pericolo, spaventato quindi... che è scappato via dal tavolo. Come? Ho visto mio marito abbandonarci così. Quindi forse pensavi di tornare per disseppellirli? Chissà come reagirei se tu facessi una cosa del genere. Il nodo centrale è qui, nella domanda che si pone l'amica della coppia quando la moglie comincia a raccontare l'accaduto. Sono scene da un matrimonio, 40 anni dopo Bergman. Ruben Östlund, già autore di Play, racconta giorno per giorno la vacanza della famiglia, mettendoci dentro il crollo del ruolo del padre, del quarantenne che non sa prendersi le proprie responsabilità, che non pensa prima alla famiglia come vorrebbe la tradizione. L'uomo non è sempre eroe, ha spiegato Östlund al simposio per i Golden Globe. L'uomo mostrato come eroe è il modello più ripetuto e utilizzato al cinema. È interessante rompere questo schema ed è utile farlo. C'è una ragione per cui questo personaggio viene riprodotto. Sarebbe altrimenti impossibile mandare gli uomini in guerra. Non vince prima le donne e i bambini, ma si salvi chi può. E la domanda è uguale per tutti, se la pone anche lo spettatore. Come reagiscono le persone davanti alla catastrofe? Cosa farei io? Cosa farebbe il mio partner? Il tema è intrigante, la realizzazione è ironica e originale. Il silenzio, Vivaldi, la camera fissa sulle montagne. E allora Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Forza Maggiore nei cinema italiani. Vi dicevo invece appuntamento agli Univision Days fino al 14 maggio, c'è questo appuntamento allo Spazio Vogue in Porta Nuova in mezzo ai grattacieli del nuovo quartiere di Milano. Poi dall'11 al 18 giugno Univision Days si spostano a Roma alle scuderie di Palazzo Ruspoli, ma noi ci vedremo lunedì sera intorno alle 20 lì allo Spazio Vogue in Porta Nuova per presentare il Rocky Horror Show in versione Blu-ray. È un grosso festival Univision Days sull'home video, ce n'era bisogno perché l'home video di fatto arrivando dopo per raccontare film che hanno già avuto la loro distribuzione spesso pare non avere bisogno invece di un veicolo promozionale come un festival. Non è così, perché come noi diciamo da 15 anni nell'home video c'è anche tanto in più e c'è tanto che può aiutare la fruizione cinematografica anche in sala. Allora troviamoci tutti lì per parlare di bel cinema e di home video. A questo punto linea la viabilità, tra poco ci colleghiamo con Boris Sollazzo per parlare delle altre uscite della settimana a partire da The Gunman. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Siamo ancora insieme, seconda parte della Rosa Purpurea, per parlare di un film che forse è un po' il fulcro della settimana cinematografica, almeno in termini di così locandina, di attrattive dalla locandina, perché Sean Penn è un po' che non lo vedevamo nei cinema italiani. In questo film che si intitola The Gunman, diretto da Pierre Morel, storia ambientata inizialmente in Congo, siamo nel passato recente, una decina d'anni fa appunto, dove il Jim Terrier si trova con la dorata fidanzatina per una ONG in Africa, ma insomma in realtà il mestiere è un altro, quello di uccidere su commissione, un vero e proprio cecchino, non il primo di questa stagione cinematografica. Ho fatto delle cose molto brutte. Dimmele. Pensavamo di aiutare gli altri, ma ci sbagliavamo. Il tiratore designato sei tu, Jim. È l'errore più grosso che abbia mai fatto. Perché sei qui? Qualcuno voleva uccidermi 3 giorni fa in Congo. La compagnia sta eliminando i testimoni. Devi smascherarli, non hai altra scelta. La nostra missione non è mai cominciata. Sono stato chiaro? Sappiamo che lei ha delle informazioni. Ho registrato praticamente tutto. Lo sputerò dove il mondo potrà vederlo. Che la vera caccia abbia inizio! Ma siccome il passato ritorna e non c'è luogo come il cinema dove ritorna quasi sempre, 8 anni dopo il nostro ha cambiato la vita, ma la sua vita passata lo cerca e lo trova e il suo passato appunto viene a chiedere il conto. Noi siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo Sean Penn in un film, come dire, di resa dei conti personale e vendette del destino, come lo classifichiamo, come lo cataloghiamo? Beh, intanto il passato al cinema, soprattutto se si tratta di un sicario, di un mafioso, di un contractor al soldo di una multinazionale delle risorse primarie e delle miniere, normalmente è più implacabile di quanto lo sia Equitalia, nel senso che veramente non hanno speranze di dimenticare quello che hanno fatto. Qui addirittura il buon Sean Penn per sanare tutto quello che ha fatto va a lavorare per una ONG, a differenza di tutti gli altri suoi compagni del tempo, che sono diventati nel frattempo ricchissimi, non si sa come, non si sa dove, non si sa con quali capacità intellettive, però ce l'hanno fatta. Lui invece scavava pozzi e pensano bene di andare a cercare lui per ucciderlo e non gli altri, che in fondo erano più visibili. E perché facciamo questo discorso? Perché il problema di Gunman è proprio la credibilità di due sicari che cercano di uccidere Sean Penn mettendogli una bomba nella camera in cui alloggia. E quando poi cercano di entrare in quella camera in cui alloggia, dimenticano di aver messo una bomba e quindi vengono fatti fuori dall'esplosivo stesso. E questo è, diciamo, abbastanza, come dire, esaustivo di un film che è stato fatto un po' con la mano sinistra. Ed è un peccato, perché Morel, sia nei suoi eccessi da uomo solo contro tutti di Taken, sia nell'ironia grottesca e rudinante di From Paris to Love, sia anche nella sperimentazione del primo Banlieue 13, aveva comunque sempre portato avanti un racconto che aveva nella coerenza, nel ritmo, nella forza, le sue, nella forza anche visiva, le sue doti migliori. Qui in Gunman sembra che nessuno ci crede, tranne la nostra Jasmine Trinca. Non è una cosa nazionalista, non si vuole salvare solo l'italiana, ma invece Jasmine Trinca è davvero in controtendenza. Uno, perché recita con impegno, a differenza di uno Sean Penn che sembra lì per caso e pensa solo forse al cachet piuttosto nutrito, o a Javier Bardem che la cosa migliore la fa da ubriaco presunto tale, ed è una delle ultime scene in cui lo vediamo. Lei invece si sforza, probabilmente perché questo tipo di film non l'ha mai fatti, quindi trova una cifra al suo personaggio molto interessante. Faccio un esempio: una delle scene più interessanti è una sparatoria che si tiene in una villa, in una casa. Noi siamo abituati a vittime che diventano esperte balistiche, anche di traiettoria, nel senso che riescono a nascondersi, riescono a schivare proiettili. Lei invece reagisce come chiunque di noi, come una persona normale, come una persona che non ha mai visto una pistola né un proiettile arrivargli addosso, e quel modo di sfuggire al terrore è molto efficace e rende credibile una scena che altrimenti sarebbe difficile da rendere tale. Il peccato è che comunque è un film che abbiamo già visto e stravisto, insomma, appunto l'uomo che viene rincorso dal suo passato, i cattivi, in particolare le corporation che lo cercano, la bella e buona, il terzo incomodo, insomma tutte cose, tutti i stereotipi che abbiamo già visti, però molte volte li abbiamo visti fare in maniera accurata, con un livello di intrattenimento positivo. Qui invece sembra veramente di essere rimasti a 30 anni fa facendo un film brutto. Faccio l'ultimo esempio e chiudo: è la prima volta, forse da 30 anni a questa parte, che vedo un film di questi, che vorrebbe avere anche un messaggio civile, iniziare con un telegiornale e finire con un telegiornale che spiega quali sono i drammi del Congo e quello che ha voluto raccontare il film. Davvero un po' troppo didascalico per essere un film già di per sé molto semplice. E allora, insomma, tante magagne, come si dice dalle nostre parti, per questo film con Sean Penn, The Gunman, che comunque per risonanza rimane probabilmente il film di questa settimana che più può insidiare una classifica che però mi sembra monolitica, nel senso che in Italia come in America la dominano gli Avengers, in Italia arrivati a oltre 14 milioni di incasso, in America a quasi 200 milioni di dollari, e al secondo posto vede Adaline, che sta andando molto bene in Italia così come in America. Quindi c'è questa specularità dei box office italiano-americano questa settimana. Cambiano le cose al terzo posto, dove in Italia c'è Child 44, che è partito piuttosto bene la settimana scorsa, mentre in America c'è Fast and Furious 7. Pensate, dopo non so più quante settimane di sfruttamento in America, il film è ancora terzo nel weekend al box office, ha superato i 330 milioni di dollari di incasso globale. Insomma, come dire, sicuramente il successo dell'anno. Andiamo a questo punto a giocare insieme, perché come sempre noi vi teniamo compagnia anche materialmente con dei bellissimi Blu-ray che dovete indovinare per provare a vincere. Questa è la prima traccia. Questa è la Tana, che non esca e non entri nessuno. No, no, fermo qui. Tana, Tana. No, no, fermo. Tana, Tana. No. E allora la rosa purpure a @radio24.it, scriveteci il titolo del film se lo avete individuato e il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. E allora adesso parliamo di cinema italiano, perché arriva in sala un film, diciamo così per usare un eufemismo, pronto da un po' di tempo, visto che è targato 2013 addirittura, ma si sa, le vie e i percorsi della distribuzione sono infiniti e misteriosi. Il film si intitola La voce, il talento può uccidere, il sottotitolo lo firma Augusto Zucchi, nel cast protagonista assoluto Rocco Papaleo insieme ad Antonia Liscova. Qualcuno doveva imitare la sua voce in un paio di telefonate. Il delitto commesso dagli imputati è gravissimo. Si tratta di salvare la reputazione del Ministro della Repubblica. Oh, lasciami! Hanno l'intercettazione di una mia telefonata che non ho mai fatto. Noi stiamo per cominciare, che devo fare? E qualcuno ha riprodotto perfettamente la mia voce. Aveva ragione lei, c'è qualcosa di grosso dietro questa faccenda. Per una questione di sicurezza nazionale, Avremo bisogno della sua collaborazione. Il plot è piuttosto interessante, intrigante. Di solito appunto si tende un po' a diffidare di finché escono troppo tardi, perché si pensa chissà quale problematica ne abbia ostacolato la distribuzione. Qui parliamo di una della storia di un imitatore di grande talento, che però non ha praticamente mai superato il livello dei nightclub, per intenderci, non ha mai avuto la popolarità assoluta, e che soprattutto aveva un grande problema psicologico identitario, cioè non si riconosceva allo specchio, cioè guardandosi allo specchio non vedeva se stesso. Questo importante e talentuoso imitatore viene a un certo punto, come avete sentito anche dalla clip, diciamo così, assoldato dai servizi segreti per fare alcune telefonate con voce falsa che potrebbero deviare il corso della storia. È un plot, Boris, sul quale in America avrebbero costruito un capolavoro. Ora magari ci accontentiamo anche di meno, ma com'è andata stavolta? Non benissimo. Intanto perché si viene condizionati molto, secondo me, dall'esempio di Alighieri Moschese, cioè si vuole raccontare un imitatore di quel tipo, si vuole percorrere una leggenda che si è portata avanti per tanto tempo nel mondo dello spettacolo, su presunti appunto utilizzi del buon Moschese, tanto era bravo come voce, per costruire trame politiche segrete, leggende a quanto ne sappiamo, e quindi insomma con tutte le falle che possono avere questo tipo di narrazioni. E poi è difficile raccontare con i mezzi limitati che probabilmente ha avuto Zucchi una trama e un plotto di queste dimensioni attraverso appunto un film che non ha avuto comunque un altissimo budget. È un film diligente in cui c'è un grandissimo Rocco Papaleo, davvero sorprendente, perché scordatevi il Rocco Papaleo divertente, scordatevi il Rocco Papaleo che è rutilante, capace di avere come mattatore l'attenzione del pubblico, e immaginate invece un protagonista intimista, capace di percorrere stati d'animo molto molto pesanti, difficili, e allo stesso tempo però anche il talento creativo che ha Papaleo, per chi l'ha visto come musicista o per chi l'ha visto a teatro, di catturare l'attenzione, di diventare altro rispetto a se stesso. È solo che la sua prova, la sua performance molto buona, anche se a volte condizionata da una sceneggiatura che gli mette in bocca dialoghi non all'altezza della sua prova, rende ancora più evidente il distacco rispetto a un film che invece si perde molto facilmente, che a livello visivo non riesce a creare quell'atmosfera che serve a rendere questo complotto credibile e a rendere quest'uomo interessante. Per intenderci, servirebbe qualcosa come abbiamo visto nella biografia di Peter Sellers per dare forza e spessore a questo personaggio. C'è una sceneggiatura che da una parte è molto semplice nei dialoghi e a volte ingenua, e dall'altra nella seconda parte incapace di tenere la complessità che cerca, e che si perde anche con delle piccole incoerenze narrative. E quindi quello che rimane della voce alla fine è proprio questo Rocco Papaleo, che mostra, pur non avendo grandi doti da imitatore, e forse per fortuna, mostra un talento che non gli conoscevamo, un po' nel deserto però. E allora, questo è La Voce. A questo punto, linea alla regia. Fra poco torniamo insieme per parlare di una delle proposte invece a livello cinefilo, diciamo, più interessanti della settimana. Si intitola Leviathan. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, Rosa Purpurea, terza parte, è un film che ha fatto incetta di premi, un po' in giro per il mondo, dal premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes lo scorso anno, al Golden Globe come miglior film straniero, insomma uno di quei film che davvero danno il senso e il segno di una cinematografia, in questo caso quella russa, con un regista di assoluto valore come Andrei Zigantsev, e il film si intitola Leviathan, e del mostro degli abissi di biblica memoria, diciamo così, accosta questa figura retorica, questa figura archetipa alla Russia di oggi, a una sorta di mostro che si divora una civiltà importante e gloriosa di dentro dopo la caduta, tanti anni dopo ormai la caduta del socialismo reale. Sentiamo questa clip e ne parliamo. Kolia, io credo che oggi non si deciderà a nostro favore. Il tribunale distrettuale di Zagori respinge il ricorso presentato da Sergei. Io non mi muovo di qui. Un posto con un grande potenziale, praticamente al centro della città e vicino al mare. È chiaro che lo stronzo si è messo in testa di accaparrarsi questo posto. Me lo sono costruito con queste mani. Accordiamoci, o sarà lo scandalo. Sei innocente finché qualcuno non dimostra il contrario. Ma chi lo dimostrerà? E a chi? In breve la storia. Kolia è un meccanico, vive in una località sperduta del nord della Russia, siamo verso appunto il mare del nord, una casetta costruita con le sue mani, come avete sentito, di legno in mezzo a niente, con un panorama notevolissimo. Vive con la giovane moglie, una vita tranquilla, un figlio adolescente un po' così difficile, come capita spesso. A un certo punto il potere mette un po' gli occhi addosso a questa piccola dimora, perché per ragioni varie vogliono sostanzialmente sfrattarlo, requisirla per poter costruire, per poter speculare diversamente. All'inizio il rapporto con il potere, che è incarnato in questo caso per esempio dal sindaco della zona, è un rapporto che sembra potersi risolvere comunque nell'ambito delle parole. Piano piano le cose non saranno così. Possibile, Vadim, che ogni volta che vieni mi parli di elezioni. Manca ancora un anno. La slitta va preparata d'estate. È giusto che pensi alle cose terrene. Le tue donazioni sono cospicue. Anche oggi sei venuto da lontano con un'offerta generosa. Te lo ripeto, ti preoccupi troppo. Ogni potere viene da Dio. Finché te lo concede, non hai motivo di preoccuparti. E me lo concede Dio? A chi vuoi che lo chieda, Eminenza? Sei tu il prete. Te lo concede. Te lo concede. E allora la discesa negli inferi appunto di una situazione non più gestibile, con lo Stato, appunto il potere costituito come grande nemico che si divora non solo la proprietà ma anche la cultura, anche la stessa identità di un popolo, quello russo. Questa è la metafora, diciamo, che sta dietro questo Leviathan, che è fotografato in maniera divina, attori come sempre della scuola russa che non sgarrano un colpo, e che racconta molto della devastazione morale e umana della Russia contemporanea, di una grande potenza che non ha saputo prendere lo slancio dovuto dopo appunto la caduta del socialismo reale. Boris, è uno di quei film che sanno fare il punto sullo stato di un paese e di un popolo meglio di qualsiasi servizio giornalistico, di qualsiasi reportage televisivo. È una fotografia perfetta, tanto quale quanto quella di Leviathan, la tua, è esattamente questo, il grande potere di Leviathan, oltre al fatto che secondo me il grande regista, e questo lo è il cineasta Leviathan, non mi azzarderò mai a provare a pronunciarne il nome, insomma, perché rischierei una brutta figura, è quella di prendere gli archetipi narrativi più grandi degli autori, dei filosofi, e persino divini più importanti, e raccontarli nella loro semplicità, cioè prendere la complessità e farla diventare una parabola di vita, una parabola morale, una parabola sociale, immediatamente comprensibile a chiunque. Tutti i premi che hai elencato potrebbero spaventare lo spettatore, potrebbero pensare a un film complicato, a un film difficile, a un film che non è per tutti. È esattamente sbagliato, perché pur essendo di altissimo valore creativo e narrativo è un film estremamente semplice, ruvidamente semplice, perfidamente semplice, perché oltre ad esserci appunto il Leviatano sia biblico che filosofico, c'è anche quel gorgo kafkiano in cui entriamo tutti noi quando il potere ci avviluppa, ci devasta, ci vessa. E qui non c'è nessuna pietà, mentre nel Leviatano Dio era in qualche modo una consolazione e anche una salvezza, qui non c'è Dio che tenga, anzi, basti vedere il dialogo con il prete, il rapporto con il prete, non c'è politica che tenga, c'è solo la possibilità di un vecchio rapporto con un commilitone, con un avvocato, che in base a quel sodalizio costruito con la vita, che ha affrontato la morte e la sconfitta, solo attraverso quel sodalizio può diventare alleanza, può diventare l'unico baluardo, l'ultimo baluardo di fronte alla crudeltà di ciò che ti vuole opprimere. Ma Leviathan non è neanche un film a lieto fine, né nel modo classico né in nessun altro modo, e in questo anche rispetto all'originale biblico non c'è consolazione, non c'è catarsi. È un film durissimo, un film bellissimo, come dici tu, a livello tecnico è straordinario, attori, fotografia, regia sono davvero di un livello altissimo, e allo stesso tempo è un pugno in piena faccia a una società come la nostra, non solo la Russia moderna. È vero che c'è questo Putin che attraverso una foto continua sempre a comparire per ricordare quanto è attuale questo film, ma parla secondo me anche dell'Occidente, parla di una società che la Russia attuale scimmiotta e che probabilmente è peggiorata rispetto a quello che forse il regista un po' rimpiange, pur riconoscendone i limiti. Leviathan è davvero un film straordinario, come dici tu, perché ci racconta che cos'è la Russia di oggi e perché fa riflettere anche noi. Assolutamente d'accordo, ricordiamolo, 35 sale in Italia, quindi prendetelo con la dovuta fretta, perché questi film vanno visti appena escono, tante volte poi non c'è tutta questa resistenza, se non magari in un paio di grandi città che sono come al solito Milano e Roma. Ricordiamo anche Andrei Zviagintsev, io provo a pronunciarlo ma non sono per niente convinto che si dica così, che fu anche Leone d'Oro con il suo film Il Ritorno, fu un fulmine a ciel sereno, Venezia 2003, il Leone d'Oro a questo regista semi-esordiente in quel momento. E andiamo ad ascoltarlo, Andrei Zviagintsev, in questa intervista dove ci racconta appunto qual è stato il suo approccio a questo film. Film è non algebraico уравнение, è... Un film non è un'equazione algebrica, è più come la proiezione delle tue impressioni, delle tue intuizioni e delle tue reazioni irrazionali a quello che accade intorno a te. Mi sono assunto il compito di rivelare qualcosa a qualcuno. Niente del genere. Non mi ha mai guidato un principio di questo tipo. La mia è solo osservazione della vita, osservazione dell'ordine sociale, o in qualsiasi altro modo lo si voglia chiamare. Per un tempo abbastanza lungo, e io sono adulto già da un pezzo, osservi la vita nel tuo paese e più o meno ti fai un'idea di come funziona. A un certo punto si è presentata la necessità di raccogliere una sfida, raccontare la storia di Marvin Johnny Meyer, una storia sulla repressione della libertà e, diciamo, sul diritto che tutti noi abbiamo alla giustizia. La mia reazione è stata fortissima. Ho reagito con tutta l'anima all'ascolto di questa storia e ho voluto raccontarla a tutti, ma ho voluto raccontarla in modo diretto, dettagliato, onesto, obiettivo. Vedendo quello che ti circonda, non puoi non parlarne. Però o non ne parli affatto o ne parli onestamente. Non è un'idea nata per caso. È saltata fuori all'improvviso dal testo de Il libro di Giobbe, dove nel finale appare Dio. Dio si manifesta a Giobbe e gli parla del Leviatano, della sua invincibilità, della sua potenza. Quando ho fatto l'analogia tra la storia di Marvin Johnny Meyer e quella del nostro Nicolai, identificando i Meyer come modello di Nicolai, mi è venuta in mente questa idea decisamente ambiziosa e pretenziosa di dare al film un titolo possente come Il Leviatano. Рішення назвати картину немного от немало таким от громогласним іменем Левіафан. La voce di Andrei Zviagintsev, La Rosa Purpurea per Leviathan, sicuramente in termini qualitativi il film della settimana. Noi giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Salve, benvenuto al British Museum. Ciao. Sarà strafico fare il sorvegliante in America. Con le pistole, col silenziatore, con le spade ninja. Siamo molto lontani dalla realtà. E allora, se voi siete vicini invece alla realtà, alla risposta esatta, la rosa purpurea @radio24.it, scriveteci titolo del film e vostro indirizzo. Più tardi sveleremo il film di 7 giorni fa, fra una settimana invece la risposta su questo film. Adesso diamo la linea alla viabilità per sentire come vanno le cose sulle strade d'Italia. Fra poco torniamo insieme, abbiamo un altro film di cui parlare, si intitola Cake. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora insieme, dicevamo, un altro film di cui parlare, tra l'altro interpretato nel ruolo di protagonista da un'attrice che è comunque molto popolare ed è una vera beniamina del pubblico italiano. Parliamo di Jennifer Aniston, che al fianco di Anna Kendrick, Britt Robertson, è nella cast di Cake di Dalian Barnes. Sentiamo la clip. Ciao. Ciao. Non credevo proprio di rivederti. Devo togliermi un peso dal cuore. Ok. Io sento un dolore terribile sempre. Lo so. Può anche darsi, ma certe volte ho il sospetto che mi vedi come una pazza insopportabile che sta lì a puntare i piedi perché si sta inventando il problema. Tu vuoi stare meglio? Davvero? Tu lo vuoi? Lo voglio. E allora, una donna, Claire Bennett, che frequenta uno di quei gruppi di sostegno per persone colpite in questo caso dalla depressione, che si vedono spesso nei film americani, tutti in cerchio a dire il proprio nome, eccetera, che però viene invitata a lasciarlo, questo gruppo, dopo le sue reazioni un po' scomposte, insomma, usiamo un eufemismo, davanti al tragico suicidio di una delle componenti. Parte a quel punto una sorta di rieducazione forzata ed è in questo momento, in questa fase particolare della vita del personaggio che il film si impernia, con una Jennifer Aniston davvero all'altezza in questo caso, Boris. Sì, forse non è una settimana in cui i film sono straordinari, se si esclude Leviathan, ma è una settimana in cui gli attori sono ad altissimi livelli, sono migliori dei film che interpretano, ecco, questo sicuramente. Jennifer Aniston qui, soprattutto in versione originale, nella versione doppiata purtroppo c'è un'enfasi soprattutto nella sua recitazione che fa perdere molto del suo talento e dell'efficacia della copertura del ruolo, insomma, che è un ruolo non facile, un ruolo che deve esprimere un dolore costante, un dolore persistente, una difficoltà di vivere che è quotidiana, quasi minuto per minuto, un malessere che non è palese nel senso più straordinario del termine, ma lo è nella maniera più ordinaria, nella maniera più normale, cioè deve essere qualcosa di estremamente credibile e allo stesso tempo costante, continuo, e non è affatto facile, perché è come, insomma, quasi recitare con una mano legata dietro la schiena. Cake, un po' come il lato positivo, racconta il disturbo mentale dal lato di chi lo prova e soprattutto senza quelle barriere etiche e comportamentali che spesso invece uno, tra virgolette, normale, ma nessuno lo è, mette nel racconto della follia, della depressione, di qualsiasi disturbo psichico si parli. E quindi non c'è nemmeno quell'ostacolo del giudizio verso il malato, che può fare sostanzialmente tutto e fa tutto proprio perché è malato, tra cui anche magari disperarsi per la morte di una compagna del gruppo di sostegno che è abbastanza protetto, è abituato abbastanza a proteggersi, che quando si tratta di dover aiutare qualcuno o espellerlo per la salvezza degli altri decide di espellerlo con un cinismo niente male, e pur di sopravvivere, perché alla fine la scelta è quella, cedere alla malattia e sopravvivere, trova, come dicevi tu, una rieducazione forzata, autodidatta, che si insinua nella vita di quella vittima per cui si era disperata, e si insinua anche con scelte che possono apparire ambigue e che probabilmente lo sono, ma sono vere, sono reali. E che ha questo vantaggio, forse non è straordinario registicamente, forse a livello di sceneggiatura ha qualche problema, ha un'attrice straordinaria, anzi ha diversi attori, ma comunque Jennifer Aniston è una spanna sopra, ma ha il pregio di raccontare qualcosa di decisamente inspiegabile con umiltà, accuratezza e a volte quasi un fastidioso realismo, senza assolutamente accondiscendere ai nostri schemi mentali, ma andando verso quegli schemi mentali che effettivamente racconta, non da fuori ma quasi dall'interno. E questo rende Cake un film estremamente godibile, interessante, con una bravissima attrice, ormai spessissimo sottovalutata, non è la prima volta che mostra di avere talento, probabilmente paga il fatto di essere stata una diva televisiva di successo e di essere stata la moglie di Brad Pitt, insomma Gossip e TV ne hanno offuscato un talento che invece negli ultimi anni si è dimostrato sia nei drammi che nelle commedie. Che ti succede? Ho preso un taxi di merda. Perché? Mi è venuto in mente che tu sei più che un po' depresso. Non avevo il tuo numero. Pensavi che mi ammazzassi? Non che in effetti siano affari miei. Non l'ho fatto. Ecco, mi vedi qua. Ti vedo. Ta-da. Bene, non sei morto. No. Non devo chiamare la polizia. È un sollievo. Sarebbe bastato dire che ti andava di passare da me. Sì, ma che divertimento c'è. Grazie, Boris. Ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E dopo tanto cinema in sala, è il momento di parlare di cinema da vedere in casa con la soluzione, innanzitutto, del nostro gioco di 7 giorni fa. Sono venuto a dirti che sta per giungere qualcosa che va ben oltre me e te. È qualche anno che il cinema in chiave spettacolare colossal si rivolge di nuovo agli eventi e ai fatti raccontati dalla Bibbia, un po' come accadeva con alcuni peplum religiosi degli anni 60. Questa volta era Exodus il film in questione, nella sua versione in Blu-ray. Lo hanno vinto Salvatore Lofino di Trieste e Marco Salzano di Napoli. Saranno loro a ricevere questo Blu-ray che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV. In collegamento con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Sì, ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Parliamo appunto del colossal biblico di Ridley Scott che racconta l'Esodo e Mosè dopo che Aronofsky si era incaricato di dare la sua lettura alla storia di Noè con la furia vetero-testamentaria e l'estetica kitsch di Noah. Exodus è un intrattenimento di altissimo livello spettacolare, meno dal punto di vista dell'approfondimento dei personaggi ovviamente, con strane accensioni da serie B e accelerazioni paradossali su questioni che invece nel testo sacro occupano molto più spazio. Però questo è il senso per il cinema di un grande regista che miscela alto e basso e ogni possibile linguaggio audiovisivo. Noi vi consigliamo per vederlo a casa l'edizione da collezione, formalmente e tecnicamente impeccabile, che include il film in alta definizione Blu-ray in 3D, con il Blu-ray 2D e 5 ore di contenuti speciali, con altissima percentuale tra l'altro di quelli degni di interesse. Giulio, come sempre, anche lo spazio per un paio di segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Cominciamo subito con domenica 10 maggio, domani L'Impero del Sole su Rete 4 alle 16:05. Sì, domenica alle 16:05 su Rete 4, L'Impero del Sole. L'undicenne Jim vive negli agi della colonia inglese di Shanghai quando nel 1941 i giapponesi invadono la città e nella confusione Jim viene separato dai genitori e finisce per essere arrestato e chiuso in un campo di concentramento. È la storia di un percorso di formazione che è anche una lotta per la sopravvivenza, un sontuoso dramma storico negli occhi di un piccolo uomo che è tratto dal romanzo autobiografico di Ballard. Ed è un film magistrale, classico e illuminato insieme a cui Spielberg nega gli eccessi melò e i ricatti moralistici con un protagonista Christian Bale giovanissimo che poi verrà consacrato appunto dal Batman di Christopher Nolan per esempio. Martedì 12 invece una proposta che arriva da un regista che ne sta subendo ancora tante in Iran, parliamo di Jafar Panahi con il suo Offside. Sì, Offside su Rai 5 alle 21:15 di martedì, pour di entrare nell'Azadi Stadium di Teheran dove sta per svolgersi un importante incontro calcistico tra la nazionale iraniana e la rappresentativa del Bahrain per la qualificazione mondiali, delle ragazze decidono di travestirsi da uomo per infiltrarsi nello stadio. girato con attori non professionisti, è come i migliori film di Jafar Panahi, è un film semplice quanto scardinante, c'è unità di luogo e di tempo, un andamento improvvisato e la capacità sempre netta di cogliere in una situazione molto semplice tutti i paradossi e le contraddizioni di un paese. Un film davvero magistrale che è stato distribuito in Italia solo dopo l'arresto di Panahi, ma anche dopo l'arresto Panahi ha continuato a fare film, tanto che la sua ultima opera è stata premiata con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. Ricordiamo quindi gli appuntamenti dei due film, L'Impero del Sole su Rete 4 alle 16.05 di domenica 10 maggio e Offside su Rai 5 alle 21.15 in prima serata martedì 12 maggio. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, grazie, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra puntata della Rosa Purpurea, grazie per averci seguito, appuntamento fra 7 giorni, qui saremo nel mezzo del Festival di Cannes di cui vi parleremo ampiamente. Un saluto da Franco D'Assisi.